fragil, la nostalgia è più fragile. Brasil sta lì, l'Italia qui. Ci sta tutto, anche il mucchio selvaggio. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Pacquena dalla bandierina e Niama schiaffeggia il pallone male e gol! Pallone in dentro per Griezmann! Eccolo il raddoppio! La Francia ai quarti di finale del mondiale! Se ne va a Rio de Janeiro! Müller! È Schürrle che va a fare la prima punta. Müller mette al centro per Schürrle! Trova subito il gol la Germania! All'inizio del supplementare! Con Schürrle dopo un minuto e 40 secondi! Özil in area, Özil controlla male, serve l'assist al compagno, Belkalem si salva, Özil la chiude, Mesut Özil, la Germania va a Rio de Janeiro, va al Maracanã. Per Pegoli, non si arrendono, arriva il cross, Jebu! Eccolo qua, signori, il quarto di finale più intrigante, la grande classica del calcio europeo, il derby d'Europa, lo chiamiamo così, vi piace? 800240024, che si giocherà nel tempio del calcio sudamericano, e cioè Maracanã. Mille incroci del destino, ovviamente c'è, stasera vediamo qual è l'ultimo accoppiamento, potrebbe essere Argentina-Belgio secondo i pronostici e Svizzera-Stati Uniti permettendo naturalmente. Quarto di finale più intrigante sarà questo Germania-Francia, per la storia che c'è dietro, perché a noi europei piace da morire questa nostra bandiera, forse l'ultima rimasta. E ovviamente c'è l'altro quarto intrigante dell'altro mondo, cioè Brasile-Colombia. Però stiamo vedendo che con fatica, fantasia, coraggio e grande spirito, altri continuano a scrivere interessanti storie mondiali. Ci sono i numeri 10 e, come detto, oggi El Diez, che si sta consacrando sul piano internazionale con la maglia dell'Argentina in questo mondiale. El Diez, cioè Leo Messi, torna in campo appunto contro la Svizzera. Ci sono i ragazzi della Francia, abbiamo visti ieri sera, e chissà se c'è qualcuno in Francia che si sogna di dire vogliamo i francesi in nazionale e non Pogba, perché dalle nostre parti potrebbe pure succedere questo. C'è la Germania che non ha paura di rotolarsi nel fango con la coraggiosissima Algeria. Ci sono grandi esempi di spirito di gruppo e viene il sospetto, almeno a me viene, non so a voi, 800240024 è il numero verde, il fondato sospetto che la verità vera l'abbia percepita, intuita e poi detta Prandelli quel giorno che parlò di patriottismo e dintorni, facendo sorridere molti. Ma molti in realtà si sono o si stanno forse dimenticando che un mondiale è una missione, è un atto di fede. Tanto che leggo un'agenzia, una notizia meravigliosa, che è questa: è quasi un derby per il piccolo stato della Città del Vaticano. Oggi pomeriggio ai mondiali sarà la volta di Argentina-Svizzera. Il Papa, stamane, incrociando una delle guardie svizzere, avrebbe scherzato dicendo sarà una guerra. Avrebbe detto Papa Francesco a una guardia svizzera. E non è una sciocchezza, perché la fonte è la più affidabile e credibile che ci possa essere, o una delle più affidabili e credibili, cioè l'agenzia francofona di informazione Vaticana e Media. Aggiungendo che le guardie svizzere avrebbero invitato Papa Francesco a vedere la partita insieme a lui, ma ha risposto che purtroppo non può. Però ha detto sarà una guerra. Lui non sbaglia! Grandissimo, non sbaglia di sicuro e non sbaglia un colpo. 800 24 00 24, numero verde. Adesso abbiamo fatto il nostro pistolotto mondiale invidiando come le bestie tutti gli altri, e subito dopo il traffico ci tuffiamo nelle cose nostre, no? Cioè in quelle che stanno accadendo a Roma e dintorni, nei palazzotti del potere calcistico, dove stanno succedendo più o meno le solite cose. Vediamo se cambierà qualcosa. Io non ci scommetterei un euro sul fatto che possa cambiare qualcosa. Sono tendenzialmente ottimista, come sapete, ma su questo fronte io ho un pessimismo, più totale e cupo. Non so se lo condividete, ditemelo se volete. 800 24 00 24, numero verde. Poi naturalmente torneremo ad altre storie mondiali con Pierluigi Pardo dopo le 15, avremo tanti ospiti, vi racconteremo anche tante curiosità come quella di una squadra del Kosovo che vorrebbe ingaggiare per i prossimi 4 mesi, indovinate chi? Traffico. Domani sarà una partita dove caratterialmente, agonisticamente, psicologicamente, su ogni pallone devi essere capace, determinato come lo saranno loro. Loro hanno un senso patriottico che noi non abbiamo come nazione. Quindi adesso da tutti si aspettano da noi e dobbiamo essere pronti per questo. Noi siamo qui anche per rappresentare l'Italia da questo punto di vista. E se dovessimo perdere un contrasto è perché sono stati più bravi di noi, non perché non siamo andati a contrastare. Tutti convocati. È evidente, è una squadra molto fisica. Abbiamo dovuto combattere durante un'ora e dopo, mettendo un po' più di vivacità, di rapidità, hanno avuto molta difficoltà per difendere, però senza segnare abbiamo avuto occasioni. Il portiere Enyama ha fatto delle ottime parate, però abbiamo messo tutto e credo che oggi è meritato di continuare la nostra strada. Andiamo tappa dopo tappa, credo che sì, adesso facciamo parte delle 8 squadre che saranno ancora qui in Brasile, un onore, però ci sarà un'altra battaglia in 4 giorni. E questo Didier Deschamps, che ha rimesso in piedi, ha ridato spirito, ha soffiato nuovo spirito dentro la nazionale francese dopo il disastro di Domenech. Noi siamo più o meno nelle stesse condizioni, avremmo bisogno di un surrogato di Didier Deschamps, ma soprattutto ci sarebbe bisogno di mettere a posto molte altre cose che mi lasciano molto preoccupato. Vorrei condividere questa preoccupazione con una grande voce come Giancarlo Padovan, direttore di Agon Sport Channel. Ciao Giancarlo, buongiorno. Ciao, buongiorno a tutti, ciao. Vuoi condividere le mie preoccupazioni intorno al, visto che siamo radunati intorno al palazzo, al Senato del Calcio, che ha le sue mille componenti, ciascuno con i suoi interessi, eccetera, eccetera. C'è una gran voglia di nuovo. Io sono convinto, mi crogiono nel mio pessimismo, non vedremo niente di particolarmente nuovo uscire di lì. No, sono assolutamente d'accordo con te, non ci sarà nulla di nuovo perché il candidato numero uno è Carlo Tavecchio, che è un vecchio anche anagraficamente. Politicante del calcio. Vecchio di esperienza, politicante del calcio, presidente della Lega Nazionale Dilettanti, quindi controllore di un pacchetto di voti consistente, per non dire determinante, e sarà lui il nuovo presidente, almeno secondo me, e essendo stato per questi anni, 5-6 anni, il vicepresidente vicario della Federazione Italiana Gioco Calcio, secondo me dovrebbe essere un complice, un corresponsabile di questa disfatta o comunque del peggioramento del calcio italiano. Invece ripartiamo da lui, un po' perché non c'è nessun altro, un po' perché non lo si vuole trovare. Ma sì, forse non lo si vuole trovare, ma anche se lo si trovasse, io credo che non avrebbe i numeri, perché il sistema per eleggere il presidente federale è un sistema che tende a preservare se stesso, insomma, e a preservare quelli che già ci sono. Certo, autoconservazione totale, questo lo sappiamo, bisognerebbe scardinare il sistema, rifare le leggi, ma campacavallo, no, caro direttore? Tavecchio intanto ha detto queste cose. Mi piacerebbe fare presidente della Federcalcio. Guardi, io, tutti dicono che Tavecchio è il vecchio, io sono una persona normale. In questo paese bisogna essere normali per essere grandi. Qui il paese è in uno stato molto particolare. Dire che dovrebbe essere un'ipotesi che non condivido sarei non serio, ma un conto è dire che spero, un conto è farlo. Quindi dice: io sono grande e spero di fare, se voglio fare presidente federale, traduco io. Sì, ha un linguaggio che andrebbe decodificato, perché ormai sta parlando come avete anche lui e non si capisce mai cosa vuol dire. Ma comunque io, è quello che hai capito tu e l'ho capito anch'io, credo, spero l'abbiano capito anche i radioascoltatori. Lui è normale, quindi grande. Sì. Essendo grande, spera di fare presidente federale. Ha i numeri per farlo, lo ripeto, non i numeri di abilità, ha i numeri dell'assemblea, l'assemblea elettiva che sarà quella che deciderà il nome del presidente federale, sicuramente convoglierà molti dei voti, la maggioranza dei voti, forse tutti i voti, non lo so, su Carlo Tavecchio, quindi sarà lui il nuovo presidente federale. Purtroppo Tavecchio ha anche questa sfortuna, si chiama Tavecchio, insomma, cioè voglio dire, c'è poco da fare. nome, bravo direttore. No, qualcosa potrebbe fare magari Malagò, su cui potremmo affidarci, ma anche da quelle parti non riesco a trovare grande ottimismo. Mentre la signorina Barbara Berlusconi, con quelle parole, come la valuti? Uno sparo nel buio? Sì, uno sparo nel buio, perché il buio è quello che avvolge la Federcalcio, le istituzioni, il cosiddetto sistema. Il suo ha voluto essere un fascio di luce per dire ci vuole il nuovo. Ma sai, per volere il nuovo deve anche esserci questo nuovo. E allora il nuovo chi è? Albertini? Anche Albertini è stato ed è il vicepresidente di una Federcalcio targata a Bete. Uno. Sì. Due, Albertini è l'espressione e è in quota Associazione Italiana Calciatori. Quindi difficilmente, per non dire è del tutto impossibile, pensare che la Serie A, la Lega di Serie A e anche la Lega di Serie B appoggino quello che di fatto dovrebbe essere l'espressione di un loro interlocutore, di un loro, di un loro avversatore, perché l'associazione calciatori è in conflitto, o spesso certo, si trova a esserlo, certo, per ragioni logiche con la Serie A e la Serie B. Certamente. Senti, Tavecchio comunque non mi sembra un rivoluzionario, nemmeno uno molto creativo. Proporrà un commissario tecnico che potrebbe essere Guidolino Zaccheroni. Queste sono le sue prime idee e secondo me sono idee sbagliate. Sai, io qui non lo so, entriamo in un altro campo. Chi potrebbe essere il commissario tecnico? Allora, il commissario tecnico deve essere uno che non costa tanto. Questa è la prima cosa che ti direbbe Tavecchio e che ti dico anch'io, perché ma l'ha detto, ma l'ha detto, non ci sono compensi milionari, non ci sono compensi milionari. Allora, non ci sono compensi milionari, quindi per esempio uno come Mancini, tanto per fare un nome, forse anche uno come Allegri o uno come Spalletti, che io personalmente vedrei molto bene, e non sono, come dire, competitivi con la carica. Uno. Due, Guidolin secondo me può andare bene, ma ha un problema, che è il problema che l'ha portato anche a rinunciare a Udine, cioè è una persona che è molto allenatore e poco selezionatore, punto numero uno. Sì. Punto numero due, le pressioni lo devastano, sì, almeno sì, secondo quello che è anche quelle che sono anche le sue interviste, la conoscenza che ha dell'uomo. Quindi francamente lì è un posto in cui quello del commissario tecnico nazionale che deve sapere, in quale uno deve saper resistere alle pressioni. Zaccheroni manca da 4 anni al calcio italiano, ha fatto il commissario tecnico del Giappone, secondo me è out, secondo il mio punto di vista. Però poi lì, sai, tutto va bene e tutto va male a seconda anche dei risultati. Io dico che abbiamo avuto dei commissari tecnici anche cervellotici, non so, mi ricordo Cesare Maldini per esempio, secondo il mio punto di vista non era un commissario tecnico che avrebbe potuto rappresentarci al meglio, però per esempio il suo mondiale lo fece benino, fumo eliminati ai quarti dalla Francia ai calci di rigore. Abbiamo avuto i federali, Berzot non aveva vinto nulla però vinse il mondiale, fece un 78 bellissimo, sai, lì andiamo in un campo che non conosco, ma il punto è chi sceglie chi, e siamo alla risposta. Sarà Tavecchio a scegliere il commissario tecnico, che sarà, che sarà uno di questi due, ma io penso più Guidolin che Placheroni, ma è un mio pensiero personale, non ho informazioni di prima mano. Con tutto il rispetto per Zaccheroni e Guidolin, adesso servirebbe l'esatto opposto, cioè come dicevi tu, un tecnico con le spalle, un commissario tecnico, un selezionatore, un personaggio con le spalle larghissime, perché anche Prandelli è stato bruciato da tutte queste tensioni, in grado di metterci la faccia e magari metaforiche mani addosso ad altri per difendere le sue scelte. Questo lo condivido perfettamente, però faccio fatica a trovare l'identikit di questo personaggio che tu hai ben tratteggiato. A chi porta? Io francamente faccio fatica, cioè non vedo neanche Mancini nel ruolo, ecco. No, io quello io più vedo Spalletti. Sì, anch'io, ma Mancini mi sembra quello più, insomma, più vicino a queste caratteristiche, ma tanto non arriveranno perché, come detto, non ci sono compensi milionari. Questo mi fa anche sorridere perché va bene, ma allora tanto vale vivere come altre medio piccole del calcio mondiale. Poi però non mi si racconti che con i soldi degli sponsor si possono portare 100 persone in spedizioni europee mondiali, eccetera, no, eccetera, no? Esatto, giusto? Esatto. Noi dobbiamo, allora, il verbo deve essere ridimensioniamoci. Sì. Cioè diventiamo una nazionale come il Belgio, diventiamo una nazionale come la Svizzera, esatto, facciamo quelle cose, non facciamo i grandi e i gradassi portando 100 persone appunto al seguito, e facciamo come fanno le altre nazionali medio-piccole dell'Europa, perché noi viviamo alla grande non potendocelo permettere e soprattutto non avendo il conforto dei risultati. Un'ultima cosa, direttore, Blatter, un altro che ha un dannato bisogno di consensi, ecco che rilancia l'idea della moviola facendo alzare, facciamo il pelo, va, a molti, soprattutto in Italia. Ma sai, Blatter in questo momento sta vivendo una difficoltà, che è quella della ricandidatura, l'ennesima candidatura, ha un avversario in Platini e ha bisogno di trovare, come hai detto tu, unanimità, o più che unanimità, consenso. La moviola può darsi che sia la strada giusta, però io non ci credo. Insomma, Blatter è un uomo, è l'uomo delle tre carte, che prima parla di una cosa, poi la nega, poi la ripropone, poi la rinega, quindi io non ci credo. Anche il calcio mondiale ha bisogno di rinnovamento, non solo quello italiano, perché se andiamo a vedere gli ultimi due mondiali assegnati, cioè il prossimo, Russia, e quell'altro, Qatar, se non mi sbaglio, sono frutto probabilmente, presumibilmente, quasi sicuramente, questo va detto in un'inchiesta giornalistica, di combin e di voti comprati. Allora tu dirai, che novità, lo so, ho capito, ma quando ti becchi con le mani nel sacco, o le mani nella marmellata, devi avere la forza di fare la rivoluzione, perché altrimenti la rivoluzione non ci sarà. A questo punto negare mi sembra abbastanza difficile, che tutto sia successo, negare questa volta mi sembra un po' difficile. Grazie direttore, buon lavoro. Grazie a te, grazie a voi, un saluto ai radioascoltatori. Ciao. Grazie Giancarlo Padovan. Michele da Milano dopo? Mi fa sentire Roberto Scaltretti. Obbedisco. Barbara Berlusconi oggi ha detto che ci vogliono i quarantenni. Sono contento. I quarantenni sono il futuro del paese. Tutti convocati. Si dice che a lei piacciono soprattutto Zaccheroni e Guidolin. A me piacciono le persone che sono normali, le persone che vivono con modestia la normalità e il lavoro. Quindi anche una rivisitazione di quello che è il compenso, no? Quindi non chiaramente il compenso si dipenderà dalla nuova governance, il compenso non potrà mai essere milionario. Allora qualcuno poi scrive: magari diventassimo come il Belgio e la Svizzera visti i risultati. O un altro ascoltatore che scrive: Gesù che tristezza, sembra di sentire una tribuna politica. E lo so, caro mio, però cosa vuole? I temi sono questi: o ne parliamo o ci nascondiamo sotto la sabbia, salvo poi strillare. Meglio parlarne serenamente. C'è Luca da Brescia che scrive: Tavecchio è il nuovo che avanza come nella politica, non vogliono lasciare la poltrona anche se hanno 80 anni di età e di idee. Avanti con Albertini e Tommasi, ognuno poi ha la sua ricetta, come quella di Fabio, l'identikit giusto per il ruolo del CT per me sarebbe Gianluca Vialli con Antonioni presidente federale. Beh, ognuno ha la sua e valgono tutte. 800240024, vi dovevo la soluzione di un enigma. Vi ho detto prima che c'è una squadra del Kosovo che non è affiliato alla FIFA che vorrebbe ingaggiare un giocatore per 4 mesi. Il giocatore si chiama Luis Suarez. Mica male, eh? 30.000 euro a Liverpool, 1.500 al mese a Suarez, buono stipendio, per giocare in questa squadra kosovara, ripeto, non affiliata alla FIFA, quindi lì la sanzione non varrebbe, si chiama Ajuvalia la squadra. Chissà se vedremo Suarez per 4 mesi con la maglia dell'Ajuvalia. 800240024, Michele da Milano, buongiorno. Buongiorno e grazie per la convocazione. Grazie a lei. Volevo semplicemente sottolineare il fatto di come ha iniziato la trasmissione, e concordo pienamente, però mi sembra veramente assurdo che non ci sia nessuno di giovane, nessuno che possa fare qualcosa a livello di presidente. Cioè, dobbiamo per forza avere una persona così, mi sembra veramente incredibile, cioè, e questo è pazzesco, e un po' ripercuote la nostra politica, sono d'accordo anche su questo. E questo politica, il modo di essere, il lifestyle, se vuole. Sì, infatti sembriamo veramente ingessati in una cosa, sembra che sia impossibile muoverci, sembra che l'unica soluzione sia quella. Non so, è assurdo, è incredibile. Non dico niente di nuovo, lo capisco, però non riesco a capacitarmi di come possiamo. Ma quanti anni ha, lei, Michele? 44. Quindi è da un po' che abbiamo o che stiamo imparando, magari non abbiamo ancora compreso del tutto la lezione, no? No, infatti, I giri che si fanno sono sempre quelli. Però Mi scusi, sembriamo tutti davanti alla televisione a guardare qualcosa come impotenti di cambiare. E siamo in mano a un branco, perdono, non ce l'ho con gli anziani, ho un piede dei genitori. In mano a un branco di persone che non hanno solo fallito. E noi non possiamo fare niente perché siamo lì, abbiamo i nostri giovani che non... Ma perché non possiamo... Cioè, tanto ha sbagliato questi, facciamo sbagliare un giovane. Che cosa succede? Impotenti. La parola che lei vuole usare è: siamo impotenti e siamo seduti davanti a questo gigantesco reality che purtroppo non è affatto fiction. E la smetto con le parole inglesi. Se lei legge però ad esempio quanto ha scritto Mario Sconcerti nella sua analisi a pagina 38 del Corriere della Sera, potrà capire i meccanismi e i motivi per cui ciò esiste. Cioè è un palazzo cristallizzato in certe regole che sono legge, e è un consesso di persone, ciascuna delle quali varie componenti, no? Ci sono nel Consiglio federale. Sconcerti scrive ad esempio: il Consiglio federale è ingestibile perché è diviso tra le varie leghe, le associazioni calciatori, quelle dei tecnici, degli arbitri, più i delegati federali, in tutto 21 persone e mai una maggioranza, ognuno vota secondo i propri interessi. C'è un popolo di 1,5 milioni di tesserati, un fatturato di azienda che è il quarto d'Italia da gestire, quindi stiamo parlando di numeri importanti, e questo è il sistema che andrebbe scardinato. È vero, c'è una legge che lo definisce, bisognerebbe cambiare quella legge. C'è qualcuno di voi che crede che vedremo un nuovo sistema, non una nuova faccia, perché non è una questione di faccia, un nuovo sistema? Alzi la mano o faccia sentire la sua voce. 800240024, numero verde. E guardate, io per una volta mi allineo con Barbara Berlusconi. Prima volta che lo faccio, vero? Non l'ho mai fatto? Prima volta assoluta. Lo faccio ora. Marco da Padova, buongiorno. Buongiorno, salve. Dica. Io volevo porre l'attento appunto sul problema federazione, per me non è solo una questione di tecnico, tecnico è una cosa, ma una federazione dovrebbe essere quell'entità, per esempio, che organizza una grande coppa nazionale come negli altri paesi, che è forte con il marketing, che è forte con iniziative sul territorio. Io ho vissuto l'esperienza inglese, l'FA sì. Cup è un'altra cosa. Attenzione, che Marco, credo però che non sappia neanche cosa sia. Però Marco, non confondiamo comunque federazione e Lega, eh. No, appunto, la Lega è troppo forte rispetto alla federazione in Italia. Uh-huh. La federazione dovrebbe avere più importanza, dovrebbe essere l'organo di tutti, invece mi pare che il potere sia molto più sbilanciato verso la Lega e la federazione. Se la ricorda l'intercettazione di Moggi anni fa, cosa diceva della federazione? Come no? Diceva che era un covo di... Sì, così. Beh, i soldi ce li hanno le... È chiaro che... È chiaro. Allora, i soldi, il portafoglio c'era la Lega di Serie A, e questo lo sappiamo. La federazione è quella che riunisce tutte le altre componenti, molte delle quali sono lì a chiedere l'elemosina, no? E però hanno diritto di voto e quindi vengono in qualche misura ascoltate e accontentate. Questo in maniera molto semplicistica, troppo semplicistica il sistema. Tommaso, Napoli, buongiorno. Salve, dottor Centa. Salve a lei. Io volevo collegarmi al discorso che diceva lei di un sistema nuovo per quanto riguarda la federazione del gioco calcio. Sì. Io lascio una provocazione e metterei... toglierei tutti i consiglieri, tutti questi faccendieri, tutti questi personaggi che ci sono intorno alla federazione del gioco calcio, e per farci rispettare in Europa e per fare rispettare gli stessi calciatori all'allenatore e che è sopra di noi e a noi stessi che siamo tifosi qui e tifiamo Italia, sì. Metterei il signor Luciano Moggi, il direttore, Adriano Galliani e il dottor Antonio Giraudo. Questi tre persone e basta. Vedrà che in Europa e nel mondo, prima di fare qualcosa e di mandarci un arbitro qualsiasi, come questo qua, che un vietnamita, un equatoregno moreno, eccetera, eccetera, si cagheranno addosso, dottor Genta. Si cagheranno addosso. Ho capito, possiamo trovare anche qualcun altro, oltre alla Moggi, Giraudo e Galliani, magari nelle patrie galere possiamo pescare qualcun altro di più attendibile, interessante o credibile nei confronti della, così, a Carraro suggeriscono dalla regia. No, ma possiamo trovare qualcun altro che faccia anche più paura di quelli di qui sopra, se si tratta di minacce fisiche o di terrorismo, di queste cose qui. Tommaso, l'abbraccio. Marco, Brescia, buongiorno. Sì, buongiorno dottor Genta. Io più che sulla federazione volevo concentrarmi sull'uomo per la nazionale. Sul CT. Sì, mi sembra anche un discorso più interessante. Non che l'altro non lo sia, però l'altro è un po' deprimente. Dobbiamo farlo, lo facciamo, proviamo a spiegare le cose, a raccontare le cose, a raccogliere pareri e a tenerci le nostre idee, però è chiaro che è più intrigante l'argomento commissario tecnico. Dica. Sì, esatto, anche perché magari a posto di Gagliani il signore Napoletano voleva metterci Ciro Scudetto, quello di Napoli, insieme a Giraudo e Moggi. Comunque, l'uomo che secondo me, anche sentendo le parole del direttore, potrebbe essere un CT della nazionale, pur non sapendo dopo l'eliminazione dai mondiali come ha tuttora sul contratto, potrebbe essere Fabio Capello. Sì, ho capito, ma siamo sempre lì. Vuole che le faccia risentire Tavecchio? Non è il caso. Quando dice che non ci saranno con lui, speriamo non sia lui, speriamo venga fuori davvero qualcosa di diverso. Però io credo che i quattrini da mettere a disposizione del nuovo commissario tecnico della nazionale non saranno molti di più, magari qualcosa di meno rispetto a quelli previsti per Prandelli, cioè circa 1.700.000 euro a stagione. Lei sa, Marco, quanto prende Capello in Russia? Marco? Sì. Sa quanto prende Capello in Russia? No, io non lo so, però 8. Penso che... 8. 8 milioni l'anno. Ah, ok. Facciamo due conti. Quindi credo che... No, ma poi per carità, grande idea. Patriota, è un ridimensionamento del genere. Insomma, lei mi capisce, lei mi capisce. E io credo che al di là di mille discorsi patriottici, lei rinuncerebbe ad 8 milioni per andare a prendere 1,7 nella Real Italia? Lei lo farebbe, io no. Nelle condizioni finanziarie in cui sono io no. No, ma io ma è una scelta, ma è una questione. Ha anche le spalle più coperte delle nostre. Quindi, sì, ma magari... sicuro, però è una questione professionale, subia. Cioè non esiste nessuno al mondo che potrebbe dire ok, ti lascio 8 milioni perché voglio tanto bene al mio paese e vado ad allenare loro per uno. Ma chi lo fa il discorso? Capello sarebbe perfetto, Intendiamoci, come figura, come carisma, come tutto quanto, sarebbe perfetto. Il mio preferito rimane un altro inavvicinabile per le stesse ragioni che è Carlo Ancelotti, ma d'altra parte, cioè, sarebbe da fessi da parte loro dire ok, straccio questo contratto e vado a allenare l'Italia, un casino della Madonna, per un ottavo dei soldi che piglio qui. Bisogna fare i conti anche con queste cose, credo. 800 24 00 24, adesso abbiamo il traffico e poi aspetto un ospite. Quindi anche una rivisitazione di quello che è il compenso, no? Quindi non chiaramente il compenso si dipenderà dalla nuova governance, il compenso non potrà mai essere milionario. Tutti convocati. 10 secondi, Alessandro Gentile per la schiacciata del più 10 Milano, 74-64, il Forum fa festa, ancora Siena che cerca di lottare, 4-3-2-1-0, l'attesa è finita, dopo 18 anni la stella dell'Olimpia torna a brillare, Milano è campione d'Italia per la 26esima volta nella sua storia. Allora, digressione, poi dopo le 15 arriva Pardo e andiamo in Brasile, torniamo sui mondiali eccetera eccetera. Ieri a quest'ora sono stato molto felice di ricevere Marco Crespi e di fargli i miei più sentiti complimenti per come ha guidato Siena in questa finale. Chi l'ha vinta però è Milano, Flavio Portaluppi, GM di Milano, il GM che ha portato il titolo a Milano dopo 18 anni. Ciao Flavio. Ciao a tutti e buongiorno agli ascoltatori. Domanda banale, te l'hanno già fatta mille volte, l'avevi vinto da giocatore, adesso da general manager, credo che questo, non voglio chiederti il più bello o il meno bello, ma credo che questo sia stato più difficile. Questo sicuramente è molto difficile, questo molto difficile e complicato, ti posso anche rispondere, secondo me è più bello, perché l'ho anche già detto qualche volta, vivere queste sensazioni da dirigente coinvolto al 100%, a 360 gradi con tutta l'organizzazione che va dal campo agli uffici, dà un senso maggiore di partecipazione, di coinvolgimento e di squadra, per cui molto più bello vincere da dirigente. Senti, anche Flavio, se non sei il vero protagonista. Io voglio dire la verità, la dico sempre, la dico anche a te, secondo me non avete giocato un buon playoff rispetto a come eravate prima, avete ottenuto due grandi risultati a mio parere, cioè quello di costruire una e di far vedere una grande squadra di pallacanestro fino all'eliminazione dall'Eurolega. Da lì in poi ho visto una squadra diversa, più impaurita, meno forte, meno sicura dei suoi mezzi. Questa è una considerazione. La seconda considerazione, forse è il successo più importante dell'anno, sull'onda di quella squadra che io una volta con Livio Prolli presente al telefono dissi: in questo momento, dopo averne dati 30 al Barcellona e all'Olympiacos, Milano è la squadra più forte d'Europa e continuo a pensare che in quel momento lo fosse. Ebbene, quella squadra è riuscita a riempire il Palazzo dello Sport di Milano ad ogni singola partita e questo resta. Allora, venendo alla prima domanda, sono d'accordo con te. Secondo me noi abbiamo giocato una pallacanestro strepitosa nel periodo delle top 16, dove davvero ci siamo imposti sul panorama europeo come una delle squadre più convincenti, se non la più convincente. Siamo arrivati un po' corti ai playoff, abbiamo fatto molta fatica, abbiamo fatto fatica fino al primo turno contro Pistoia. E secondo me questo va ancora a maggior merito di Luca Banchi, dello staff tecnico e dei ragazzi, perché quando ci siamo trovati l'estate scorsa assieme al presidente Prolli per pianificare il roster, abbiamo pensato di partire da gente che avesse fame, determinazione, voglia di sfida, cattiveria sportiva, e penso che abbiamo vinto con questi ingredienti. Sicuramente la nostra pallacanestro era più bella, spettacolare, spumeggiante, redditizia, equilibrata nel periodo che è andato da gennaio, febbraio, marzo, ma alla fine con queste armi, con la determinazione, con la cattiveria, siamo riusciti a vincere meritatamente. Devo fare dei grandi complimenti a Siena, a Marco Crespi, che ha giocato sicuramente un grandissimo playoff e che ci ha messo davvero in difficoltà, così come ci aveva messo in difficoltà Sassari, così come ci aveva messo in difficoltà Pistoia. Rivendico il fatto però che non abbiamo rubato nulla, nonostante quello che su alcuni siti web si è visto. Ah sì? Questa non la sapevo. Beh, no, adesso io, Marco è un mio amico, ma non può dire in spogliatoio che noi abbiamo rubato. Non abbiamo rubato il loro trofeo. Sì, abbiamo vinto il trofeo che loro hanno. La prossima volta glielo chiedo, non so se fosse in quell'accezione, fosse in quell'accezione. Non sono di madrelingua inglese, ma insomma. Detto comunque questo, che è una piccola polemica inutile. No, inutile. Ogni polemica è utile, basta chiarirsi, no? La seconda cosa che hai detto, sì, in effetti è stato secondo me un altro grande successo di questa stagione. Abbiamo fatto 11 sold out. Penso che non si sia mai visto nella storia della pallacanestro Olimpia Milano. E questo va a merito intanto della squadra per quello che è riuscito a trasmettere, e mi ricollego a quanto detto riguardo alla determinazione e al DNA di questa squadra, all'imprinting, che era secondo me molto simile a quello, o almeno quello che abbiamo cercato di fare, a quello che è stato per tutta la storia della pallacanestro Olimpia Milano, una delle caratteristiche principali, quindi la determinazione e la combattività. E questo ha trasmesso sicuramente un sentimento, delle emozioni forti ai nostri tifosi, che piano piano si sono riavvicinati. E dall'altra parte, onestamente, un po' di merito anche all'organizzazione, ai ragazzi che lavorano nel mio ufficio, che davvero con grande passione e con grande determinazione sono riusciti a diffondere. Certo. Lo scudetto è figlio di tutti, Flavio, lo sai perfettamente. È la vittoria di una squadra, campo e fuori. Certamente. Comunque il dato degli spettatori a me è quello che ha impressionato ancora di più dello scudetto, perché... sono di Milano, vivo qui, vivo la pallacanestro e ricordo in tempi vicinissimi, basta guardare l'anno passato, partite di Eurolega con 2000 persone sugli spalti o partite di playoff di livello con 4000 anime sugli spalti. Quest'anno vedere, al di là degli 11 sold out, vedere comunque il forum pieno tutte le volte, a me ha impressionato, ti dico la verità, forse addirittura di più della qualità del basket che avete espresso. Faccio parlare un ascoltatore con Flavio Portalupi ed è Davide da Pesaro, buongiorno. Buongiorno. Dica. A me invece il numero di spettatori non ha affatto impressionato, perché facevo parte quasi 35 anni fa di un esodo per uno spareggio con 77 pullman e 5.500 persone. Sì. Quindi non mi impressiona. Detto ciò, ho detto che volevo parlare di basket, ma diciamo così, è una mezza bugia collegandolo al calcio. Sì. Cioè a tutt'oggi io gestisco un'azienda e vedo che quello che importa è l'organizzazione, e a Siena quello che funziona, e devo dar merito pur non essendo simpatici, è che il sistema funziona, e qualsiasi sistema tu togli e la cambi con un'altra, tutto continua a funzionare. Sì. E quindi è quello. Beh, che Davide, forse in questo caso bisognerebbe usare un tempo diverso, cioè il tempo passato funzionava, in quale maniera lo stiamo scoprendo, e non con buone sensazioni. Si può fare lo stesso anche senza grossi capitali. Si può fare lo stesso senza grossi capitali, ma si può fare, si deve fare nel rispetto delle regole. Abbiamo pazienza, si può fare, si deve fare nel rispetto delle regole. Poi questa stagione di Siena è del tutto particolare sui generis e diversa rispetto alle altre. Vorrei invece chiudere con Flavio Portalupi chiedendole come sarà la prossima Milano. Ma guarda, la prossima Milano la stiamo pensando e la stiamo plasmando adesso. Sicuramente sarebbe bello poter avere all'inizio della prossima stagione un numero elevato dei giocatori che hanno composto questo gruppo, però ci sono anche delle leggi di mercato e di conseguenza dopo questa vittoria alcuni giocatori andranno giustamente anche a monetizzare la loro stagione e i loro successi. Sì. Penso che uno zoccolo duro intanto ci sia già, perché comunque abbiamo dei giocatori sotto contratto come Hackett, come Gentile, come Cerella, come Samuels, come Moss, che quindi danno sicuramente un senso di affidabilità e di continuità. Cercheremo di aggiungere a questi qualche altro tassello della squadra di quest'anno e dove non ci riusciremo sicuramente ci metteremo sul mercato cercando nuovamente quei giocatori con caratteristiche che possano essere confacenti al nostro progetto, non solo tecniche ma anche umane. Perché giustamente, come ricordavi tu, ogni progetto può essere vincente o non vincente, sì, nel rispetto delle regole. Esatto. Da parte nostra noi stiamo cercando di dare una nostra piccola impronta, abbiamo ancora molto da lavorare, però direi che nell'ultimo anno una svolta c'è stata e vorremmo dare continuità a questo tipo di lavoro e di svolta. E certo, anche perché quel pezzettino di stoffa poi fa tutta la differenza del mondo anche nel progettare piani futuri, nel lavorare e nel lavorare in condizioni diverse, perché a Milano c'era una pressione che altro che sulla nazionale di Prandelli, caro Flavio, come sai bene, a Milano c'era una pressione, ogni anno la scimmia diventava più grande e adesso era un gorillone di 18 anni e meno male che è andato via. Flavio, un abbraccio, buon lavoro. Grazie, ciao. Buon lavoro anche a ciao. Te. Ciao. Flavio Portaluppi, dunque GM dell'Armani Milano, adesso ci fermiamo perché abbiamo il solito appuntamento, Bet Corner, GR e poi torniamo con Pardo dal Brasile, con altre storie e chiacchiere mondiali e soprattutto con le vostre voci. 800240024 numero verde. Quarti finale pronostici anche di Francia e Germania. Il mondiale vive oggi altre due appassionanti sfide per l'ingresso nelle migliori otto del mondo. Alle 18 si parte con Argentina-Svizzera, partita che promette spettacolo e che si gioca all'Arena Corinthians di San Paolo. Vediamo dunque le quote SNAI per questa gara. L'1, la vittoria dei sudamericani, è quotata 1,50, l'X è a 4,25, il 2 invece con il successo della Svizzera è quotato 6,50. È possibile anche indovinare il nome del primo marcatore. Nell'Argentina spiccano i nomi di Messi, quotato 3,50, Higuain 6,50, Lavezzi 7,50, per gli elvetici Shaqiri e Dramic sono quotati 12, Seferovic è quotato 15. Alle 22 poi l'ultimo ottavo di finale di questo mondiale tra Belgio e Stati Uniti, in programma all'Arena Fortenova di Salvador. L'1, la vittoria del Belgio, è quotata 2, l'X è 3,30, il 2 invece con la vittoria degli States è quotata 4. Questa era l'ultima delle quote SNAI di oggi, noi ci risentiamo domani. Tutti convocati. E dunque torniamo, sta per arrivare anche Pardo dal Brasile, chissà dov'è. Io ho perso i conti dei suoi spostamenti e sono anche discretamente preoccupato. Ci siamo ragazzi. Ci siamo, speriamo. 800240024 è invece il numero verde per far sentire la vostra voce. Sentiamo, mi fa segno Franco Piantri, autore di questo programma, Roberto Scaltrippi in regia, Lorenzo Nespoli in redazione, questa è la squadra. Sentiamo Sabeia su Messi come lui. Y Messi está haciendo un gran mundial, que es lo que todos esperábamos, que es lo que esperaba él, que es lo que esperaban sus compañeros, que es lo que esperaba todo el público de Argentina. Así que estoy muy contento por el equipo en general y por él. Obviamente que es un jugador determinante para nosotros. Maradona era un jugador determinante y Messi lo es. Maradona era un giocatore determinante e Messi lo è. Vediamo se lo sarà anche oggi e da qui alla fine del mondiale. Fino adesso certamente lo è stato. Sempre a proposito di voci mondiali e delle partite di questa sera, allora io penso che l'Argentina eliminerà la Svizzera. Ne sono quasi certo. Ovviamente tutti gli argentini faranno gli scongiuri del caso. Vedo invece come un pochino più complicata l'impresa del Belgio, perché questi Stati Uniti mi sembrano davvero, dicevo prima, una squadra in missione, anche se c'è Jürgen Klinsmann che ha qualche pensiero strano a proposito dell'arbitro che dirigerà questa partita. Is it a good feeling? No. because he's coming from the same group with Belgium and Algeria, which deserves a huge compliment to go through in the next round. He's able to speak French with their players on the field, not with us. And it's the country that we beat in the last second in the last World Cup. So sometimes I know I understand FIFA. It's difficult always to choose the right referees for the right games. And it's always being kind of tricky for FIFA, but it is what it is. Ditemi anche voi il primo pensiero che vi è passato per la mente nel sentire queste parole di Klinsmann in perfetto inglese. Ha detto: ho qualche preoccupazione per l'arbitro che è algerino, l'Algeria è uscita da quello stesso gruppo, parla francese come... quindi sarà facile per lui intendersi con i belgi. Un sacco di dubbi e di sospetti. Ditemi anche voi se la prima cosa che vi è venuta in mente non è stata, come per me, si vede che Klinsmann è passato da queste parti, come giocatore, ma c'è passato. Alessandro, Firenze, buongiorno. Eccoci qua. Eccoci là. Buongiorno. Vero o no? Si sente che Klinsmann è passato di qua. Come diceva, pensar male si fa peccato, ma eccetera, eccetera, eccetera, no? Questo è il senso. Dica. No, ma io una cosa, io, come diceva il vecchio Gino, quello sì. È tutto sbagliato, è tutto da rifare. Sì, questo sicuro. Questo allenatore, che con tutto questo tecnicismo, ma ci ricordiamo Berzot, che ha vinto il più bel mondiale della storia, che ha fatto giocare i migliori, e la squadra non è che ha cambiato squadra tutte le volte. Come l'ha fatto il mister Prandelli, che fra l'altro, come nomine mia, la lascia a casa un Rossi che, se ci avessi creduto un po' di più, sì. con un po' più di coraggio. Sono d'accordo, eh? Alessandro, sono d'accordo, ma vede, la differenza è stata che Berzot all'epoca scelse una squadra e la difese contro tutto e tutti. Prandelli, e questo mi dispiace, ma è il principale rilievo che viene da fare, al di là di Rossi, non col senno di poi, ma anche con quello di prima, abbiamo detto che a un giocatore così, anche se non sta benissimo, è difficile rinunciare. Te lo porti e poi vediamo che cosa succede. Tanto non è che gli altri abbiano dato chissà che cosa, no? alla causa, ma anche gli stessi cerci Insigne sono andati lì a fare grosso modo i turisti, tanto voleva portarsi Giuseppe Rossi per fare chissà il turista, chissà qualcos'altro. Però al di là di questo, ciò che più mi ha deluso nella gestione di Prandelli è stato proprio questo: ha presentato una squadra che non aveva una faccia, si è fatto condizionare terribilmente dai venti dell'opinione pubblica e probabilmente, oppure Level probabilmente, leviamolo, va, si è fatto condizionare anche da uno spogliatoio che non è stato in grado di gestire e che alla fine lo ha fatto prigioniero. Questa è la mia sensazione, potrò sbagliare, ma non credo. Franco Perugia, buongiorno. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Mi permetto di sottoporle al suo pensiero, sì, due argomenti. Uno che riguarda la composizione dei gironi del Mondiale. Sì. Perché trovo più ormai anacronistica, forte, meno forte, medio debole e debole. Oggi le squadre si equivalgono un pochino tutte. Abbiamo visto certe partite, sì, in cui le cosiddette grandi hanno veramente... erano sfiatate di fronte all'Algeria, Cile e quant'altro. Qui trovo il vecchio modo di fare composizione gironi è obsoleto. La seconda osservazione che volevo fare è questa: ma insomma, queste partite che finiscono 1-1, 1-0, 2-1, ma si possono vedere più gol? Io mi ricordo benissimo a una certa età che una volta fece una proposta a un dirigente sportivo dicendo così: le porte attualmente sono larghe 7,44 metri e alte 2,42. Mi scuso, 2,44 alte e 7 metri. Le misure sono queste, sì. Lei tenga anche conto che queste porte sono da datano di 80-90 anni fa, queste misure, no? Ma insomma, i portieri erano alti allora 1,75, 1,78, oggi sono tutti 1,90, 1,95. Quindi si può pensare di vedere partite che finiscono 6-3, 7-4. Sì. No, beh, Franco, però aspetti, ma allora questo è un discorso che potrebbe valere per ogni tipo di attrezzo sportivo: allarghiamo i canestri, alziamo la rete a pallavolo, eccetera, eccetera. Mi sembra che questo in particolare sia l'occasione sbagliata per avanzare proposte di questo tipo di fronte ad un mondiale, perché sono state edizioni mondiali in cui davvero non si segnava mai, in cui anche la qualità del gioco era da brividi. In questo caso a me pare che si stia vedendo un eccellente mondiale, tutto considerato, un eccellente mondiale con moltissimi gol e con un grande equilibrio, e io credo che non ci sia nessun valore importante per una qualunque competizione, sia esso un campionato nazionale o un mondiale, non ci sia nessun valore importante come l'equilibrio e l'incertezza, e qui ce li abbiamo tutte e due. Eccolo lì Pierluigi Pardo, ciao Pier. Ciao, no, ma hanno fatto il record di gol, perché dobbiamo alzare le porte? Record di gol. No, questa cosa che hai detto alla fine secondo me è fondamentale, te lo dico anche da telecronista, la persona di partita disse tante, non è il numero di gol che rende belle le partite. Ieri Germania-Algeria, poi è finita 2-1, ma è una partita che era, sullo 0-0 era una delle partite più belle del mondiale. Bellissimo. Quindi non è la quantità di gol, anzi, secondo me troppi gol sono un segno di qualcosa che non va, di difese troppo larghe, di errori, di troppi errori. Poi magari è divertente, però insomma non è quello il non è quella la qualità secondo me. No, senti, però per prima cosa adesso poi continuiamo a parlare, ma dimmi dove sei, perché ho dichiarato prima la mia vaga preoccupazione. No, sono sempre in Brasile, sono tornato in base logistica a Mangaratiba, montano dei servizi, farò dei collegamenti, poi torniamo a Rio e insomma siamo... Quindi stai bene, tutto a posto, possiamo andare a casa, buone notizie, bene. Sì, ma a casa ci sentono a prescindere. Ma infatti magari si preoccupa, perché magari alle 14 non mi sento, dico dove sarà Pierluigi, dove sei finito? Figlio mio. No, comunque stavo dicendo che l'incertezza mi sembra il tratto comune di tutte le partite di questo mondiale, di questo giro degli ottavi di finale, e lo trovo meraviglioso. Al di là del numero dei gol, sto vedendo non c'è una partita scontata, non c'è una partita tanti a pochi, non c'è una partita in cui una squadra ammazza l'altra sul piano del gioco e non c'è discussione. Qui c'è discussione, c'è oggetto del contendere ad ogni giro, e questo mi piace da morire. Sì, sicuramente, anche perché forse non abbiamo ancora visto squadre perfette, cioè non abbiamo ancora visto squadre capaci di dominare, ma come dicevamo ieri, poi alla fine, se guardiamo le squadre che hanno vinto il mondiale, non ce n'è una nella storia che non sia passata attraverso delle situazioni complicate. Anche la Spagna nel 2010, tanto celebrata, cioè era stata la famosa parata di Casillas, il rigore che poteva girare completamente tutto. La vittoria contro il Portogallo agli ottavi era stata 1-0, contro la Germania in semifinale era stata 1-0, quindi poi alla fine non è che conta, devi comunque passare attraverso delle fasi complicate. Sì, certo. Sulla composizione dei gironi poi invece io qualche dubbio ce l'ho, perché secondo me i criteri per la composizione dei gironi sono stati sono quelli sbagliati, nel senso che bisognerebbe valutare come teste di serie veramente le squadre che nelle grandi competizioni fanno risultati di un certo tipo, non stare a guardare questi ranking con i punti, sì, no? Noi siamo stati condannati per il pareggio con l'Armenia, poi abbiamo avuto la sfiga e siamo finiti fra le africane, no? E quindi abbiamo beccato questo girone di ferro con tre squadre già campioni del mondo. Secondo me la storia da questo punto di vista un pochino va rispettata, anche perché poi comunque noi veniamo da un europeo. Però finiresti per avere teste di serie immutabili ad ogni volta, no? No, immutabili no, però legate ai risultati degli ultimi anni, legate ai risultati veri, ultimi anni, quelli delle grandi competizioni, non quelli, non le amichevoli, perché il ranking FIFA adesso è un ranking molto legato a quanti punti fai nel girone di qualificazione, che è una, perché è una misura, però è più una misura secondo me se tu nelle ultime quattro competizioni di mondiali ed europei ti sei qualificato sempre, sei arrivato avanti. E per dire, adesso io dico una cosa impopolare, perché poi Nigeria e Algeria ieri hanno giocato benissimo, però io sono contento che ci sia Francia e Germania, nel senso che comunque è una grande partita di calcio e qualche sorpresa va bene, ma un mondiale nel quale poi alla fine, non lo so, semifinale è Costa Rica, Colombia, Algeria, con tutto il rispetto, ecco, oppure la finale Colombia-Costa Rica, non lo so se la vogliamo, no. Per carità, poi se si dimostrano essere migliori benissimo, ed è e magari io tifo sempre per i più deboli, magari poi non resisterò a tifare Colombia contro il Brasile. Ieri hai tifato Algeria, un pochettino. Ma ero molto combattuto da questi due elementi. Da un lato, appunto, sì, sicuramente, insomma, Germania e Algeria, vediamo se fanno gli algerini, eroica, non puoi non tifarne. Cioè, è una normale, secondo me, è un normale stare dalla parte del più debole. Dall'altra, però, ecco, razionalmente la mattina dopo ti svegli, c'è Francia-Germania, sei più contento che se ci fosse Nigeria-Algeria, secondo me per il bene del mondiale, per il fatto. E anche della nostra salute mentale, posso dire. Certo. Ti faccio, a proposito di salute mentale, ti faccio sentire una cosa, un audio. The passion that we have and the love that we have playing for our country will shine through. You represent this whole development of soccer in this country that is just breaking through in all areas. And that's it. The United States will be playing in the last 16 of the World Cup. Nobody, and I mean nobody, believed the United States had a chance in this group. Everybody said you have no chance. We took that chance and we move on, and now we really want to prove a point. If we have to do it the hard way, we will, and they have. They will remember this moment right now forever. Va bene, immagini non le abbiamo, ma se volete potete trovarle. Ma tutte le immagini, Pierluigi, la Federazione Italiana Giuoco Calcio che posta un video con questo impatto. Questo è il video preview di Stati Uniti-Belgio che sarà stasera postato dalla Federazione Americana. Sono bravi per fare queste cose, Dio. Non è che noi non siamo bravi. Ho appena visto una clip di Sport Media, set a uso interno sulla Champions League, che faceva i brividi. E ovviamente anche le clip che vediamo su Sky sono bellissime, ragazzi che ci lavorano sono ma questa è la federazione, questa è la federazione. Sì, alla fine gli strumenti tecnologici sono quelli, cioè ti metti in sala con David e con altri programmi di montaggio e fai, cioè, lo può fare chiunque, prendi un realizzatore e la federazione potrebbe tranquillamente farlo. In generale, vabbè, risponde all'idea del marketing che hanno gli americani, all'idea anche un po' etica che li rende dei grandissimi da questo punto di vista nello sport, nella costruzione di un evento. Sono stati i primi a spettacolarizzare il mondo dello sport, certo, a renderlo simile, certo, a rendere le partite dello sport simili a dei colossal di Hollywood, quindi da questo punto di vista sono bravissimi. C'è anche la sensazione che il Belgio non se la porta da casa. Bravo, anche secondo me il Belgio non se la porta da casa, non se la porta da casa per niente, perché a me questa squadra piace, poi è tosta, sono dei cagnacci e poi, vedi, io sto notando una cosa, si sentono probabilmente anche loro in missione, anche loro finalmente, forse per la prima volta, gli americani portatori di un interesse diffuso, perché mi sembra che da quelle parti il calcio stia davvero sfondando. Ho sentito dei numeri pazzeschi per quanto riguarda i tesserati, i praticanti in continua crescita, poi c'è questo nuovo movimento, ci hanno provato mille volte a partire da Pelé, Beckenbauer e Cruyff ai Cosmos mille anni fa e non ci sono mai riusciti. Adesso però ho come l'impressione che questo mondiale sia importante per loro anche da sto punto di vista. Sì, loro, io ero in Sudafrica, la Confederation, quella dell'impresa sfiorata, loro eliminarono in semifinale in una delle, fra l'altro, notti più fredde della mia vita a Bloemfontein. Beh, questo è un dettaglio non rilevante, ma c'è un freddo che non è raccontabile. Eliminarono Spagna in semifinale e poi persero invece in finale contro il Brasile, una partita nella quale, se non sbaglio, andarono pure in vantaggio. E quella, vi ricordo, fu insomma già una grande epica impresa, con tanto di messaggio di Obama. Obama l'altro giorno ha fatto l'imbocca al lupo, ragazzi. Sai, alla fine, secondo me, il calcio sta prendendo negli Stati Uniti una chiave un po' diversa, perché loro sono abituati da sempre a fare a giocare tra di loro, nel senso che comunque hanno il predominio assoluto sui loro quattro sport: baseball, hockey, basket e football americano. E sono sport dove loro tendenzialmente fino a pochi anni fa non si misuravano neanche con gli altri paesi, tanto è vero che il titolo NBA equivale al titolo di campione del mondo, questo è il discorso per l'NFL. Il calcio è diverso, nel senso che nel calcio loro scoprono uno sport di squadra nel quale non nascono tradizionalmente su un piedistallo sopra tutti gli altri. È uno sport che non è loro, nel quale si stanno adattando, ma nel quale stanno dimostrando di poter essere molto competitivi. È una cosa che diciamo da 20 anni, dal famoso mondiale americano, insomma, cioè, è chiaro che tu la passione poi non è che la puoi cambiare in un giorno, la mania non è che la puoi cambiare in un giorno, però anch'io ho dei segnali che negli Stati Uniti stia diventando veramente uno sport sempre più emergente, che si sta avvicinando sempre più ai 4 sport principali, ma soprattutto che ha questa particolarità qui, nel senso che voglio dire, non è che tu fai puoi far sfidare la nazionale italiana di football americano con la loro, ma finisce 623-12 probabilmente. Certo, quindi certo, qui hai la possibilità di uno sport appunto equilibrato, dove ogni vittoria è una conquista. Andrea Pistoia, Loris Treviso, Marco da Bari, parliamo anche con gli ascoltatori, Pier. 800 24 00 24, sempre. Andrea, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Buongiorno. Volevo tornare sul tema dei CT. Sì. Io vedo che altre federazioni hanno risolto brillantemente al proprio interno queste problematiche. Il ciclismo su tutti, il ciclismo Martini, Ballerini, sono stati ottimi esempi, che sono costati anche relativamente poco, ecco, rispetto alle cifre che gira sul calcio. Capirà che è uno sport leggermente diverso questo. Sì, è uno sport sono dinamiche diverse. Però, insomma, abbiamo visto. Ma ragazzi, come si fa? Ho letto le interviste da vecchio, ho sentito parlare di Rocca, è una persona che io stimo moltissimo. Ma come si fa a pensare nel 2014 che la federazione italiana possa partire da figure costruite nel chiuso di una federazione? Cioè, tu devi giocare contro Cristiano Ronaldo, contro Messi, contro Ibrahimovic, con gente che guadagna milioni di euro, sono le top star del calcio mondiale, eppure tu ne hai alcune, quello che ti è rimasto ancora ce l'hai. Di questo stiamo parlando, di una iperprofessionalizzazione. Come puoi pensare di andarci con l'allenatore? Parla caduto, stava dicendo cose condivisibili che ho detto io prima, è tornato? Le persone sono bravissime, però è un altro sport, e allora questi allenatori dei centri federali andassero a farsi la gavetta in Serie A, non è un discorso praticabile, dai, siamo seri, ma anche quello che quello che dice Tavecchio, l'ho detto prima, ne parlavo con Padovan prima, insomma non mi puoi dire che non abbiamo una lira per prendere un allenatore, perché a quel punto allora diciamo ok, l'Italia declassata anche di qui, allora competiamo con l'Albania, con la Grecia, con il Marocco, magari con la Svizzera, che però è più forte, qualche quattrino ce l'ha. Allora ditelo, l'Italia è una squadra di queste, però quando andiamo a fare i mondiali non andiamo in 200.000 perché lì ci sono i soldi degli sponsor. Cioè l'Italia deve essere competitiva secondo leggi di mercato, e quindi devono esserci quattrini per pigliare un allenatore che sia un allenatore, e magari possibilmente anche uno adeguato, senza fare troppe storie. No, poi scusate, i quattrini ci sono, perché sono famosi 62 milioni dei quali vabbè, si lamenta col CONI, forse anche per una, abbiamo capito, per delle rivalità anche individuali, ma insomma comunque un contributo che il CONI dal calcio italiano c'è. Tutto ciò che è di commerciale, e io da questo punto di vista devo dire che voglio essere molto chiaro, molto preciso, cioè è vero che con la nazionale viaggiano un sacco di persone, Casazzurri, però è anche vero che finché i conti vanno bene, e i conti vanno bene perché il bilancio è pubblico, alla fine questa missione ha fruttato 2 milioni di dollari. E allora non piangiamo miseria, no? Ma la differenza tra i costi e i ricavi dal punto di vista commerciale per la federazione mi risulta che siano positivi, e sappiamo che sono positivi. Convocati. Bacalli, presidente Lega Pro, è stato piuttosto duro su Prandelli. Io le farò un esempio. Noi abbiamo preparato una catena di montaggio che doveva produrre una Rolls Royce e purtroppo ha prodotto una 500. Se ha prodotto una 500 sarà un pelo anche colpa sua, perché di quella catena di montaggio faceva già parte. Avete capito chi è, no? Prossimo presidente federale. Vediamo, Però. Abbiamo capito. Quella catena vediamo, di montaggio posso, faceva, posso dire al di là di tutto lui. Che io ti sento malissimo. Dimmi, ti sento civilmente, non so, provaci. Ecco, ci proviamo, no? Che comunque secondo me ha ragione Barbara Berlusconi. Come no? L'ho dichiarato prima. L'ho dichiarato per la prima volta, sono d'accordo con Lady Barbara. Qualche altra volta sarei stato d'accordo. No, però ha ragione, nel senso che comunque siamo di fronte. Io lo dico adesso, a parte che da vecchio, forse è meglio da nuovo, a parte le battute, io penso che io non lo conosco abbastanza per poter dire che non sia in grado, ci mancherebbe altro, però credo che nel mondo di oggi si debba avere il coraggio, come in altri settori della vita pubblica, di guardarsi negli occhi, di capire le cose se vanno e no. Loris da Treviso, buongiorno. Buongiorno, grazie Carlo. Dica. Io volevo solo spendere due parole sul CT della Nazionale, ma in maniera un po' diversa. Prego. Cioè, io ricordo i mondiali dell'82, quando l'Italia si qualificò per il rotto della cuffia, sì, dopo aver passato in malo modo il girone iniziale. Sì, sì. E lì, in quel momento, Berzotto fece una cosa particolare, chiuse tutto a tutti e richiuse in silenzio stampa. Sì. Da lì in poi vedemmo una nazionale completamente trasformata, con la voglia di vincere, di giocare, soprattutto di giocare. Questo che da un bel po' di tempo mi sembra manchi alla nostra nazionale. Quello che fondamentalmente manca, secondo me, non è tanto i campioni, perché voglio dire, il Costa Rica o lo stesso Uruguay non mi sembra che pullino di grossi campioni, però sono andati avanti. Sì. Manca, secondo me, una figura di preparatore mentale. Sì, ma è mancato. Allora, l'ha vinto Berzot, che era un uomo di grande carisma, l'ha vinto Lippi, che era un uomo di grande carisma, sa che è arrivato in finale mondiale, si può dire tutto, ma non che non avesse carisma, e soprattutto commissari tecnici. Guarda caso, il tratto comune, capaci di comunque di difendere le loro scelte ad ogni costo e di imporre le loro scelte ai giocatori ad ogni costo, questo è evidente. Poi siamo anche abbastanza prigionieri di questi stereotipi, per cui l'unica via per noi per fare bene in un mondiale è quello di avere tutto un casino della Madonna intorno. Dimmela. Siamo anche prigionieri del risultato, perché appunto l'esempio. Quella squadra lì è una squadra meravigliosa dell'82, è una squadra che ha fatto 4 partite, lo so che è impopolare come discorso, noi li celebriamo giustamente come eroi, io mi ricordo, godevo come un riccio, avevo 8 anni, ero in Calabria in vacanza, quindi grazie infinite a quella generazione. Quella è una squadra che ha fatto 4 partite, perché fa un girone pessimo con 3 pareggi, poi fa queste 4 imprese incredibili e poi dalla prima amichevole celebrativa comincia a prendere schiaffi e non si qualifica all'Europa dell'84. Quindi alla fine, e giustamente noi celebriamo Berzot come un grande eroe italiano, un uomo di grande saggezza, eccetera, eccetera, ma è il risultato che fa opinione, c'è poco da fare. Adesso possiamo fare tutti i discorsi, il mental coach, il silenzio stampa. Gli spagnoli hanno vinto. Marco da Bari. Sì, buongiorno Carlo. Buongiorno. Senta, io ho sentito l'intervento di Klinsmann e lo condivido pienamente. È stato un intervento, secondo me, nemmeno di sua iniziativa, è stata un'iniziativa sicuramente della Federazione Statunitense. Lei dice? Per una giudicazione scandalosa arbitrale. E adesso mi riferisco a un arbitro messicano che arbitra un Uruguay. E da come designare un arbitro di San Marino o della Svizzera italiana. Perché non è come in Europa, in Sud America, cioè non era come designare un arbitro tedesco in una squadra dove c'era l'Italia. Sì. È diverso. Sì. E Argentina, Messico, Uruguay. L'arbitro algerino a dirigere il Belgio. Ma è già borderline, il nostro era proprio scandaloso. Ma cioè, insomma, non guardi, posso dire una cosa, che una considerazione che volevo girare a Pardo, se riesco ad acciuffarlo ancora per un istante. Ci sono. L'ultima cosa considerazione che volevo fare insieme a te, sperando che regga la linea fino alla fine, Pier, è questa. Io l'ho detto, stiamo vedendo un buon mondiale, tanti gol, belle partite, eccetera, però mi sembra un mondiale buono anche dal punto di vista, dannazione, degli arbitraggi. È chiaro che Blatter, che ha bisogno come l'aria in questo momento di consenso, tira fuori il cavallo di Troia della moviola nel momento in cui francamente non se ne sente o non se ne sentiva tutto questo bisogno. Mi sembra in fondo, con pregi e difetti, anche un mondiale, viva Dio, arbitrato correttamente. Ma insomma, Carlo, è iniziato malissimo, ti ricordi, con l'errore di partita Croazia, sì, con i gol legati al Messico contro le prime partite sono state un disastro. Noi, ripeto, siamo, è molto maturo il nostro atteggiamento, non abbiamo fatto casino, ci siamo fatti giustamente i processi all'interno, ma noi siamo usciti anche per l'arbitraggio, lo dico proprio senza... È un ragionamento da perdenti, però infatti lo facciamo dopo 20 giorni, dopo 10 giorni che siamo usciti, ed è l'ultimo elemento, però insomma, se dobbiamo guardare oggettivamente quello che è successo, noi siamo usciti anche perché l'arbitro si è inventato un'espulsione e non ha visto nulla. Ho capito, ma guardalo nel complesso questo mondiale. E c'era se vuoi un rigore per Costa Rica, ma nel complesso medio, non sarei così entusiasta, però sicuramente da come era cominciato il livello degli arbitraggi è migliorato, però io voglio rimanere, quindi facciamo così, adesso ci proviamo, perché io sto fermo in un posto da sempre, dall'inizio di questo collegamento, e cade ci siamo salutati, se cade lo sappiamo, allora facciamo un saluto preventivo, ciao Pierluigi Pardo, ci sentiamo domani, ciao, intanto continuiamo a parlare, ok, vale per dopo. Nunzio Prato, buongiorno. Oh, buongiorno. Dica. Senta, non ho sentito mai fare in questi giorni una considerazione, forse la ritroverete banale, ma a me non sembra tanto. L'Italia e la Spagna sono le nazionali che hanno fatto una figura, tra virgolette, più brutta, ma più brutta perché non li ho visti correre e muoversi come si muovevano di solito. Andando un po' a vedere ciò che succede nelle squadre di club, queste sono le due nazionali che hanno espresso le squadre di club che hanno dato più giocatori alla nazionale e che hanno rischiato di più. Hanno fatto più partite. Ora, a una certa età, giocare 50-60 partite l'anno a quei livelli dove si fanno 8, 9, 10 chilometri alla partita con quell'intensità, forse impedisce al giocatore di esprimersi come farebbe se fosse costretto a farne 20 o 30, mi domando. Ma nel selezionare questi campioni, qualcuno che poi forse dovrebbe anche farlo, si fa la domanda di vedere oggettivamente, con dati biometrici, come sono preparati queste persone all'inizio del campionato, non quando hanno conquistato la qualificazione. Però, io ringrazio lei, però ad esempio nella Germania giocano tutti quelli del Bayern di Monaco. Robben, una delle superstar di questo mondiale, è uno del Bayern di Monaco, ha giocato 1,5 milioni di partite, quindi è chiaro che in nazionale vanno i più bravi, che normalmente sono quelli che giocano le squadre più forti, e le squadre più forti giocano una quintalata di partite l'anno, quindi mi sembra una cosa quasi conseguenziale, o mi sbaglio? Sì, diciamo, secondo me Italia e Spagna, vedi che resisto per ora, Italia e Spagna sicuramente hanno un'ossatura in questo momento di giocatori abbastanza in avanti con l'età, e la Juve ha fatto comunque una marea di partite perché tra Champions e Europa League comunque ne ha fatte tante, in Spagna hanno giocato tanto, l'Inghilterra ormai neanche la consideriamo più, ma questo problema c'era storicamente con le sue coppette, la Coppa di Lega, comunque un campionato molto, molto stancante dal punto di vista fisico. È un'analisi che ci può stare. Devo dire che sul discorso dei rilievi biometrici, questa gestione aveva fatto un vanto di tutta questa tecnologia. A un certo punto sembrava veramente, per esempio sulla sostituzione di Verratti nella seconda partita da parte di Thiago Motta, era stato fatto capire che il problema era proprio un problema di test, cioè che i giocatori venivano monitorati continuamente con un'attenzione all'aspetto tecnologico mostruosa. Quindi io credo davvero che siamo di fronte di cosa sono convinto? Io li guardo in faccia questi qui che sono ancora al mondiale, guardo in faccia quelli dell'Algeria, quelli stessi della Nigeria, i francesi, i tedeschi e tutti gli altri. E più li guardo, più mi viene il dubbio che Prandelli avesse capito tutto quel giorno, che un po' spernacchiato da tutti noi ed è riso, parlò di patriottismo. Io vedo un sacco di squadre che ci credono, Spagna e Italia, e l'abbiamo capito dopo, non ci credevano, non avevano un gruppo, non avevano uno spogliatoio, non avevano unità di intenti, non avevano questo fuoco dentro, non avevano una missione da compiere. Non avevano un papa che, sai cosa ha fatto oggi Francesco? È passato davanti alle guardie svizzere e gli ha detto... Stasera sarà una battaglia. Bellissima. Ed è vera, fonte estremamente accreditata. Allora, io vedo un sacco di squadre che ci credono. La Francia di 4 anni fa con Domenech e tutto quel casino era chiaramente una squadra come era questa Italia, come era questa Spagna. Adesso hanno degli occhi diversi. Credo che in un mondiale queste cose contino. Sì, Io penso che in un mondiale sicuramente queste cose contano, sicuramente esiste una, appunto, un senso di ispirazione quasi dall'alto, no? Che è la forza delle grandi squadre. Insomma, chiunque abbia fatto sport professionistico a un certo livello e sia in vena di confidenza te lo racconta questa cosa qui, che comunque esiste. Poi ci possono essere spogliatoi conflittuali, ci fu il mitico spogliatoio della Lazio del 74 che ha addirittura ispirato libri perché si odiavano, si cambiavano. Ma sono eccezioni, diversi, no? Però sono poi, eccezioni. Sì, però poi trovavano in campo una loro coesione, no? Anzi, forse l'ostilità li rendeva gruppo. Cioè, alla fine tu puoi trovare mille chiavi, dalle più pacifiche alle più conflittuali, dalle squadre che vanno a cena tutti insieme una volta a settimana perché sono tutti amici, alle squadre che invece hanno delle personalità forti che si detestano al loro interno. Però l'importante è arrivare a un risultato. Qui probabilmente Prandelli si era reso conto che non c'era gruppo, ha provato a fare questa cosa con le mogli che non ha funzionato. E le chiacchiere poi stanno a zero, insomma. Detto questo, non siamo sinceramente una nazionale che tecnicamente può permettersi di arrivare svuotata e in cattive condizioni fisiche a un appuntamento, perché non abbiamo così tanto talento che ci possa di sopperire a queste cose. Tutti convocati. Abbiamo trovato l'allenatore della nazionale. No, io niente, sono solo di passaggio. Di passaggio perché gli hanno di nuovo offerto la candidatura? Assolutamente no, perché sto aspettando mia figlia. Perché secondo lei quale sarebbe il migliore allenatore adesso? Quello che sceglieranno. Quello che sceglieranno, tanto non c'è ancora il presidente. Allora, adesso la voglio chiedere a sua figlia. Innanzitutto sei andata. Perfetto. Cosa ha detto papà? Cosa ha detto papà? Non so cosa ha detto, aspettava te. Marco Tardelli? Sì, mi capita che mi aspetti, io arrivo spesso in ritardo, quindi... Perfetto, e poi? E poi niente, poi siamo in trepidante attesa di vedere chi sarà il presidente della federazione, perché come dicono tanti che di calcio ci capiscono, dicono che ha senso prima che si elegga il presidente e poi che si scelga l'allenatore, in modo che sia il presidente a difendere una scelta fatta. Cosa vuoi sapere, se mio padre tra i candidati? No, è stato candidato a tutto quest'anno. Cosa avete mangiato, quindi... dove siete stati, voglio sapere queste cose. Vuoi sapere queste cose? Cosa mangia un campione, ex campione di calcio? Tanto non si vede che mi si allunga il naso, quindi facciamo finta che voglio sapere queste cose. Ma non ho altro da dirti. Non hai altro da dichiarare? No, purtroppo no, perché non sono io Marco, io Pardo, sono Sara. Provaci tu, Pardo. A cosa è stato candidato? Alle elezioni? Sì, certo, a tutto, voglio dire, quindi... Il colpo di fulmine c'era stato, no? Sì, fra un po' mi aspetto che lo candidino al posto di Blatter e abbiamo chiuso il giro. Mi sembra comunque una degna prosecuzione di una carriera importante. Ma lui, ecco, ma non lo so, sentivo parla, lui ci andrebbe, certo. E chi è che non ci andrebbe, no? Ma non lo so, dipende, perché poi voi dite che l'82 hanno vinto, sì, però insomma, l'hai detto tu prima. Ma chi? Non ho mai sentito mettere in discussione la vittoria di un mondiale. Non ho messo in discussione la vittoria di un mondiale. Ho detto che nel calcio poi il risultato fa opinione. Quella squadra lì ha fatto 4 partite meravigliose, ma sono numeri, sono fatti. Sì, no, il risultato fa opinione, la Coppa del Mondo è un risultato. Ma assolutamente, però voglio dirti, non è che quella generazione lì ha fatto 4 partite meravigliose, noi li amiamo, gli vogliamo bene l'anima, ribadisco, ho 8 anni, è stata la mia più grande gioia, la prima gioia sportiva della mia vita. E stiamo parlando di una generazione di campioni straordinari, perché se no non batti Brasile, Argentina, Polonia e Germania, ma sono 4 partite. Quell'Argentina. Ma sono d'accordo, ma adesso non è che sono brasiliano, argentino, polacco o tedesco, sono l'uomo più felice del mondo, però credo che se uno deve fare un discorso sui numeri e sull'onestà intellettuale, quella squadra lì ha fatto 4 meravigliose partite e si e merita ha vinto il mondiale. E ha vinto il mondiale. E quella squadra lì comunque arrivava da un mondiale precedente in cui aveva costruito qualche cosa. Quindi il progetto ci vuole sempre. Ma è evidente che non siamo mica matti. Cioè, eravamo bambini, Pardo bambino, io ragazzino. E quella lì è stata davvero la nostra più grande gioia sportiva. Io dormivo la finale. Come si fa a dormire la finale? Ma avevo tre anni. Avevi tre anni e tre anni sono abbastanza per non dormire quando c'è la finale dei mondiali e gioca l'Italia. Abbi pazienza, scusa. Ti racconto una cosa. La prima volta che papà ha deciso di portarmi allo stadio, ero di nuovo troppo piccola, ha deciso di portarmi a una partita serale. E dopo 5 minuti sono crollata, quindi lui si offese molto, quindi vedi come vedi il calcio ha fatto benissimo, ha fatto bene a offendersi come una bestia. No, io voglio sentire, abbiamo altre due dichiarazioni di tuo papà, posso farle sentire? Volentieri. Una è su Tavecchio. Sì. E quale sarebbe il miglior presidente? Per me è uno che conosce le attuali regole che vanno cambiate, però uno che ha esperienza per esempio Tavecchio potrebbe essere un ottimo presidente perché conosce il passato. Esperienze ne ha tante perché conosce qualche anno ce l'ha da parte. Non è che bisogna buttare via quelli che hanno qualche anno di più degli altri. Era chi era il rottamatore che aveva stima di lei, pensavo che no. Non c'entra niente, io sono sempre dell'idea che chi è intelligente e conosce le cose va tenuto. Poi magari con lui si può vedere di migliorare le cose, il tempo, o creare giovani per crescere, ma io non sono uno di quelli che vuol buttare via la gente. Io sono qua per mio figlio. Lo so, ma io glielo chiedo. Di quello che succede dentro è un... Eccomi. Eccola, io non sono d'accordo con papà stavolta, cara Sara. Ti ho sentito, ma ognuno stavolta tengo Barbarella, ma non perché è Barbarella, perché davvero vorrei vedere qualcosa di diverso dentro quel palazzo lì. No, ma certo, io quello che credo però è che in un certo senso Barbara ha detto una cosa giusta, cioè ci vogliono delle iniezioni di giovani, ma i giovani vanno anche cresciuti, tirati su e protetti affinché possano realizzare i loro progetti. È inutile che facciamo finta che uno entra in una struttura, in un'istituzione, arriva fresco, carico, pieno di energia ed è sufficiente. No, però non c'è sufficiente. Poi quando ci entra vecchio dentro, perché può essere anche questo. Noi non abbiamo tantissimo coraggio ma questo vale per tutto, vale anche per i giocatori, perché da noi uno che ha 25 anni è giovane, non esiste al mondo, in tutto il mondo, uno che ha 25 anni o è un giocatore o non è un giocatore, o è forte o non è forte. A proposito di giocatori non più giovani, papà ha parlato anche di Balotelli? allora sì, abbiamo alcuni campioni, altri no, un solo fuori classe e gli altri sono ottimi giocatori. Qual è il solo fuori classe? Lo sanno tutti qual è il solo fuori classe. E il portiere? Pirlo. Il portiere è importante, fuori classe anche lui, però insomma, i giocatori ne abbiamo due. Poi per il resto abbiamo. E Balotelli lo rieducherebbe? Non è un fuori classe, non è colpa di Balotelli. Tutto questo secondo me è solo colpa di una preparazione sbagliata. Ecco, colpa, cosa vuoi che ti dica? Niente, preparazione sbagliata, Balotelli? Io sono Balotelli, d'accordo. Balotelli, io non ne parlo più, non sono troppo esposto. Poi sai che io sono, cioè Milo Raiola che mi paga per parlare bene di Balotelli, questo lo sanno tutti. Ah sì? Ma certo, ma lo sanno tutti. Ah, che news, non lo sapevo io. Fosse vero. Sei furbo, eh? Fosse vero, Andrea da Cuneo, mio caro, fosse vero. Andrea Lacuna, buongiorno a tutti, e adesso vi faccio pagare anch'io da Mino Raiola per parlare bene di Balotelli, se basta quello io ne ho bisogno, mi faccio avanti. No, ma anch'io, poi io ovviamente faccio il doppio gioco, no? Comunque il Tardelli nazionale c'ha ragione quando parla di fuoriclasse, che ce n'abbiamo uno solo ed è Pirlo, ed è vero. Però quando parla di Tavecchio è vecchio, basta, cioè se c'è una cosa buona che deve uscire da questo mondiale è appunto l'uscita di Abete e di tutta la compagnia cantante, cioè basta, sì, veramente rinnoviare. Io sono juventino, però Barbara Berlusconi è un monumento, bisogna fare quello che dice questa volta. Aspetta, un monumento, assolutamente. Perché è facile fare dichiarazioni di rottura, poi però bisogna anche fare dichiarazioni propositive. È chiaro che dietro a quella affermazione, facendo 2 più 2, è chiaro, Tavecchio ha 71, Albertini ne ha 43. In pensione, 71, sì, 75, Albertini ne ha 43, quindi è facile intuire quello che Barbara Berlusconi voleva dire. Poi, chiaramente. No, ma il problema vero è che non si tratta tanto di scegliere un'altra persona a prescindere da carta d'identità. Anch'io preferirei avere qualcuno di... con idee diverse, un po' più nuove, un po' più di energia, questo sì, però il problema è che tutto accade all'interno delle vecchie regole, perché così è, lo sa anche Sara Tardelli, vero Sara? È vero, vanno cambiate le regole, ma secondo me prima ancora più forti delle regole sono le idee. Chi sarà il migliore di oggi? Tommaso, Napoli, buongiorno. Salve dottor Genta. Salve a lei. Io volevo collegarmi al discorso che diceva lei di un sistema nuovo per quanto riguarda la federazione della gioco calcio. Sì. Io lascio una provocazione e metterei toglierei tutti i consiglieri, tutti questi faccendieri, tutti questi personaggi che ci sono intorno alla federazione della gioco calcio, e per farci rispettare in Europa e per fare rispettare gli stessi calciatori all'allenatore e che è sopra di noi e a noi stessi che siamo tifosi qui e tifiamo Italia, sì. Metterei il signor Luciano Moggi, il direttore, Adriano Galliani e il dottor Antonio Giraudo. Queste tre persone. Abbiamo richiamato addirittura Pardo per fargliela sentire. Abbiamo 8 secondi di trasmissione, però volevo che lui la sentisse. Ciao Pier. Sì, l'ho sentita. Viva l'82! Ciao, ciao ragazzi. Ciao Pierluigi Pardo, ciao Sara, sentiamo presto. Sara? Sì, ti ho salutato, basta poco farvi cambiare idea, un bacio, sono contenta, ciao. Franco Piantarini, autore di questo programma, Roberto Scaltritti in regia, e c'è anche Lorenzo Nespoli in redazione, ciao a tutti. Tutti convocati.